domandino mai il perché. Mi sveglio all'alba e studio tutta la sera, ma la pagella sembra sempre più nera. Questa condanna dura una vita intera, mi converrebbe forse stare in galera. Ma se questo è l'ingresso per la società, allora chissà. La maturità, chissà che cazzo mi servirà. Già, per far felice mamma e papà. Chissà che cazzo mi servirà. Già, per far felice mamma e papà. Per questo testo sfrutto l'ora del tema, e ripensando tutta quanta la scena, forse mia mamma è stata ancora più scema a partorirmi e a darmi in pasto al sistema. Ma se questo è l'ingresso per la società, allora chissà. Chissà. La maturità, chissà che cazzo mi servirà. Già, per far felice mamma e papà. Chissà che cazzo mi servirà. Già, per far felice mamma e papà. Scappo di casa e sbatto forte la porta. Vai a fare il culo tu il tuo pezzo di carta. Lo so che in tanti mi darete già torto, ma secondarvi un po' come essere morto. Ma se questo è l'ingresso per la società, allora chissà. La maturità, chissà che cazzo mi servirà. Già, per far felice mamma e papà. Chissà che cazzo mi servirà. Già, per far felice mamma e papà.